Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Ben ritrovati ad Assemblea On Air, il programma che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna. In studio Isabella Scandaletti e Francesca Mezzadri. In questa puntata il nuovo pacchetto di misure regionali per le attività produttive per la ricerca e innovazione in campo industriale. Le richieste rivolte alla Giunta regionale con interrogazioni in tema di infrastrutture e ambiente. Ma cominciamo con le iniziative che riguardano il post alluvione e la conta dei danni nei territori travolti. Raggiunge quasi 65 milioni di euro la conta dei danni provocati al patrimonio culturale dall'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio scorso. Sono interessate 155 chiese, 21 musei, 91 edifici storici, 12 aree archeologiche, 5 parchi e giardini storici, 21 archivi e 13 biblioteche. Numerosi anche i cinema che hanno subito danni. Tra le province più colpite c'è Forlì-Cesena, con danni che ammontano a circa 25 milioni di euro, Ravenna con 21, mentre a Bologna la stima raggiunge quasi gli 8 milioni. È il bilancio che l'assessore alla cultura Mauro Felicori ha riportato in commissione. Secondo l'esponente di Giunta, serve potenziare fino al 2024 l'uso dell'Art Bonus, il regime fiscale agevolato per chi dona sostegno alla cultura. Sentiamo Mauro Felicori. In questo modo si avrebbe una mobilitazione del risparmio privato e quindi sarebbero risorse che i danneggiati possono spendere subito, diminuendo anche i costi che lo Stato deve subire. Quello che preoccupa sono i tempi di realizzazione degli interventi. Ecco Francesca Marchetti del Partito Democratico. Non dimentichiamo che stiamo parlando del patrimonio culturale e artistico della nostra regione, ma allo stesso tempo della necessità di fare presto, perché proprio i beni artistici e storici hanno bisogno anche di competenze. Quindi la velocità e le risorse sono i due elementi che terremo presente anche nella nostra azione politica di proposte di sensibilizzazione che può avvenire all'interno della Commissione. Un altro aspetto da tenere in considerazione, secondo Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle, è l'impatto negativo che hanno i cambiamenti climatici. Sentiamola. I cambiamenti climatici hanno un impatto grave e negativo anche su quello che è il patrimonio culturale. Quindi c'è un tema sicuramente di emergenza, ma poi c'è un tema di prevenzione e da questo punto di vista io credo che la Regione dovrebbe agire. Io ho già presentato un progetto di legge per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Anche Federico Amico di Emilia Romagna Coraggiosa punta sull'Art Bonus per il reperimento delle risorse e chiede velocità nel recuperare i materiali storici conservati negli archivi e nelle biblioteche. Abbiamo presentato una risoluzione che vuole estendere per il 2023-2024 l'impiego dell'Art Bonus anche su beni culturali privati o ecclesiastici, cosa che oggi non è possibile, ma questo per provare un po' ad accelerare i tempi di intervento. E a proposito di alluvione, l'assessore regionale Alessio Mammi ha riferito in commissione sui danni al settore agricolo. Oltre 1 miliardo di euro con 8.000 aziende colpite, di cui 3.000 coinvolte da eventi franosi. E poi l'emergenza fango che si è consolidato sui terreni e in alcuni casi raggiunge uno spessore tale da renderli inutilizzabili. Sentiamo in proposito Valentina Castaldini di Forza Italia. Per quanto riguarda la produzione agricola dell'Emilia-Romagna, riteniamo sia fondamentale dare una giusta informazione e soprattutto capire quante sono le risorse per reinvestire su un settore fondamentale per questa regione. Siamo parzialmente soddisfatti, le risorse devono arrivare, quello che ci interessa è appunto un'informazione capillare che non possa lasciare indietro nessuno su un tema così fondamentale. Veniamo alle interrogazioni in tema di infrastrutture e trasporti presentate alla Giunta regionale in Commissione Territorio. Silvia Zamboni di Europa Verde ha riportato all'attenzione dell'assessorato sull'aeroporto Marconi di Bologna per sapere in particolare a che punto sia il nuovo studio sulla salute dei residenti. Studio ha precisato che doveva essere ultimato entro aprile 2023, ma di cui ancora non si sa nulla. Dalla risposta dell'assessore abbiamo appreso che l'ASL non riesce a concludere lo studio che doveva fare, appunto lo studio medico sull'impatto delle attività dell'aeroporto, perché l'aeroporto non ha ancora consegnato le mappe aggiornate, le mappe isofoniche. Ci aspettiamo che l'aeroporto acceleri e che collabori appunto con l'ASL per definire finalmente un quadro sanitario più dettagliato rispetto a studi precedenti. Sul progetto di sovraelevazione della discarica Tremonti di Imola ha invece presentato un'interrogazione Marta Evangelisti di Fratelli d'Italia. L'opera ha recentemente ricevuto il via libera dalla Regione. Sentiamo il commento di Evangelisti. Abbiamo interrogato la Regione per sapere che cosa intendesse fare in merito alla discarica. Ci ha sorpreso la risposta: la Regione intende andare avanti nonostante il parere negativo della soprintendenza. Noi siamo assolutamente contrari, pensiamo ai cittadini che lungamente si sono posti e lamentati e ci opporremo con i cittadini in tutte le sedi a questa nuova decisione. Sempre dall'opposizione, Marco Mastacchi di Rete Civica ha chiesto alla Giunta di riferire sul completamento dei lavori della cassa di espansione del Navile, nella zona di Bentivoglio, in provincia di Bologna. L'assessora Irene Priolo ha riferito che per completare l'operazione occorre l'ultima fase dei lavori, ma la cassa di laminazione può funzionare in via transitoria con una capienza pari al 50% del suo funzionamento, come testimoniato nel corso degli eventi estremi dello scorso maggio. Sentiamo il commento di Mastacchi. Sono stato insoddisfatto della risposta che ho avuto perché durante questa emergenza è emerso quanto sarebbe stato importante l'utilizzo di questa cassa di espansione, che ha già avuto un finanziamento importante, mi pare di 5 milioni di euro, ma che è ancora al 50% della sua capacità. Continua l'iter in commissione del pacchetto imprese 2023-2025, che comprende il programma sulle attività produttive della Regione Emilia-Romagna e quello sulla ricerca e innovazione in campo industriale. Il provvedimento prevede uno stanziamento di risorse europee e regionali pari a 3,6 miliardi di euro destinato ad imprese e ricerca. Le parole chiave sono sviluppo sostenibile e digitalizzazione, fondamenti su cui si basano in modo trasversale tutti i bandi che saranno a disposizione di imprese e soggetti pubblici. Gli interventi sono raggruppati in 12 aree di azione con obiettivi quali sostenere lo sviluppo delle industrie, mantenere alti livelli di imprenditorialità, accrescere l'export e l'attrattività internazionale del territorio e, non da ultimo, rafforzare la ricerca e l'innovazione. Lo spiega la Presidente della Commissione Territorio, Manuela Rontini. Due programmi distinti che abbiamo però portato avanti in parallelo, costruito in maniera complementare e che hanno un unico obiettivo: consolidare la presenza e aumentare la competitività delle nostre imprese all'estero. Il pacchetto nasce dal confronto con le parti sociali, a partire da chi ha firmato il patto per il lavoro e per il clima. Giudizio positivo da Pietro Mambriani di Confindustria. Ha aumentato gli investimenti e la competitività delle imprese su tutta una serie di ambiti: digitalizzazione, internazionalizzazione, ricerca e innovazione, e la Regione Emilia-Romagna è molto avanti nell'utilizzo di queste risorse rispetto alle altre regioni italiane. Per Francesco Zannoni di Confcooperative è necessario valorizzare anche il sistema dei servizi nel mondo delle imprese. Occorre creare delle connessioni e occorre promuovere progetti di sviluppo che consentano alle imprese dei servizi di rimanere agganciate allo sviluppo e svilupparsi insieme ai propri clienti, che sono le imprese produttrici. Sentiamo la relatrice del pacchetto imprese, la consigliera Roberta Mori del Partito Democratico. E la quantità di risorse economiche molto significative su questi programmi, devo dire che devono andare di pari passo con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio, dove in modo orizzontale, in modo integrato, tutti quanti mirano allo stesso obiettivo, quello di una evoluzione, di uno sviluppo sostenibile. Nei giorni scorsi Patrick Zacchi è stato proclamato dottore dell'Università di Bologna con 110 lode al termine del percorso di studi del Master Internazionale Gemma su studi di genere e letteratura contemporanea. Il ricercatore egiziano, accusato di diffusione di notizie false, ha discusso la sua tesi online in collegamento dal Cairo poiché non gli è stato permesso di allontanarsi dal suo paese. Alla proclamazione, pronunciata dal rettore Molari, era presente anche la presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti. Ecco cosa ha dichiarato. Zacchi ha dimostrato di voler continuare a studiare con passione e impegno. Il 110 lode è un risultato veramente strepitoso, ma è un risultato amaro perché noi avremmo voluto avere Zacchi qui a Bologna, ma non è stato possibile, gli è stato negato anche questo. Speriamo che il 18 luglio, data della nuova udienza, sia veramente la tappa finale di un calvario che da 3 anni vede Zacchi privato della sua libertà. Siamo al termine della nostra puntata. Per rimanere aggiornati, seguiteci sui nostri profili social e sul sito assemblea.emr.it. Grazie per essere stati in ascolto e a risentirci su queste frequenze. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia-Romagna, programma cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.